Letture di Radio 24. La paura del pedofilo ha scatenato negli ultimi anni una vera e propria caccia alle streghe, con tanto di padri innocenti accusati senza prove dei crimini più orribili e bambini strappati alle famiglie da assistenti sociali troppo zelanti. Ma l'ultima trovata di Air France le supera tutte. Sugli aerei, d'ora in poi, i bambini saranno separati dai maschi adulti, in nome del principio che ogni uomo è un potenziale orco cattivo. Air France ha stabilito che i minori non accompagnati possono viaggiare in aereo solo in massima sicurezza, cioè seduti lontano dagli adulti. Perché dietro ogni uomo d'affari, ogni quacker, ogni fotomodella e ogni padre di famiglia può nascondersi un pedofilo, pronto ad allungare le mani in volo e a mettere nei guai la compagnia. Non ci possono essere adulti sullo stesso blocco di sedili, salvo in caso di cabina completa, è il nuovo regolamento. Quindi i bambini, tra i 4 e i 14 anni, che devono prendere l'aereo senza i genitori, con il cartellino al collo e decine di migliaia di raccomandazioni, dovranno anche viaggiare seduti da soli o accanto ad altri bambini privi di accompagnatori, oppure con la hostess o, eccezionalmente, accanto a una donna. Perché statisticamente la pedofilia è roba da uomini. Ma un viaggiatore British Airways a cui è stato chiesto di spostarsi dalle vicinanze di un piccolo passeggero solitario ha sporto denuncia per discriminazione. In nome dell'uguaglianza anche le ragazze devono essere considerate potenziali molestatrici di bambini. La clausola è stata aggiunta in seguito a molte lamentele dei genitori, soprattutto riguardanti i voli verso gli Stati Uniti, viaggi lunghi in cui si socializza per forza, soprattutto con ragazzini che guardano i cartoni animati e disegnano dinosauri, compagni di viaggio molto migliori dei russatori, degli ubriaconi e dei logorroici. Siamo gente pericolosa, da tenere lontana, siamo presunti maniaci sessuali in cerca di piccole prede, lupi cattivi travestiti da pendolari. All'ansia per i dirottatori di aerei, per i guasti al motore, per le turbolenze, per le spiegazioni delle hostess sulle procedure d'emergenza, per la perdita delle valigie, per il vicino di posto che sicuramente è un terrorista, adesso bisogna aggiungere anche quella terribile delle molestie sui bambini. Quindi, se mai dovesse capitare di mandare un figlio in aereo da solo, e succede spesso, uno su cinque viaggia senza accompagnatore, si rischia di impazzire nell'attesa. Da solo, circondato da persone con la bava alla bocca, in balia del cielo, senza nessuno accanto che gli possa infilare la maschera dell'ossigeno. Un incubo. Infatti, questa nuova regola antipedofili è incompatibile con quella d'emergenza che prevede, in casi terrificanti, che gli adulti aiutino i bambini a infilare maschere, giubbotti, eccetera. Per il servizio giuridico di Air France, le probabilità di approccio sessuale sono più elevate di quelle di depressurizzazione d'urgenza, hanno spiegato. E già questa è una buona notizia. L'aereo non cadrà, niente schianti per questa volta. Mio figlio sopravviverà, ma verrà molestato dai compagni di viaggio, gente che sale sugli aerei con le tasche piene di caramelle e di cattive intenzioni. Se invece a prendere l'aereo sono io e c'è nei paraggi un bambino che viaggia solo, tutti mi guarderanno male e penseranno che se gli passo un fazzoletto perché gli cola il naso, sto cercando di agganciarlo. Nessuno avrà il coraggio di rivolgergli la parola, il piccolo piangerà perché gli manca la mamma e io farò finta di non vederlo, per non rischiare che arrivato a destinazione racconti a genitori sull'orlo di una crisi di nervi che una signora gli ha fatto una carezza sulla testa e gli ha raccontato la favola di Cappuccetto Rosso, allora la hostess le ha urlato, si alzi immediatamente e se ne vada, e lei ha detto per giustificarsi, ma potrebbe essere mio figlio, ovvero un classico della colpevolezza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Annalena Benini «Meglio volare soli che male accompagnati. Sono tutti presunti pedofili» dal Foglio del 2 settembre. Letture di Radio 24. Ora che Fidel Castro, chiedendo scusa per le persecuzioni nei confronti degli omosessuali, ha ufficialmente ammesso quello che tutti sapevano, ma che molti si rifiutavano di riconoscere, ci sono ancora dei militanti, come Gianni Vattimo e Rossana Rossanda, che riescono a giustificare il leader Maximo dicendo che in fondo a Cuba erano un po' tutti omofobi. E adesso viene da chiedersi cosa significa tutto questo. qual è la storia da cui promana? Perché proprio ora e in definitiva non è ormai troppo tardi? Il papà dell'ultimo comunismo, il cubano Fidel Castro, risorge per l'ennesima volta dalle sue presunte ceneri, chiedendo scusa per le persecuzioni dei gay. Lo fa in un'intervista al quotidiano messicano La Jornada, non al leggendario organo di partito cubano Granma. «Voglio chiedere scusa agli omosessuali per averli perseguitati negli anni 60 e 70. Soltanto? Se qualcuno è responsabile, sono io. Non darò la colpa a nessuno. Personalmente non ho pregiudizi, ma aver spedito migliaia di gay nei campi di lavoro è stata una grande ingiustizia. A 84 anni, sia l'ultima resurrezione o una patetica svolta senile, è probabilmente un cercato pretesto per indicare al mondo che esiste ancora un posto chiamato Cuba. E la sua storia è inesorabilmente legata a quella, almeno intellettuale, di molti pezzi d'Europa, Italia compresa. Tra i tantissimi intellettuali che fecero il viaggio a Cuba, quelli che Paul Hollander chiamò i pellegrini dell'Havana, Gianni Vattimo, filosofo, comunista, gay, è stato uno dei più assidui, uno che tenacemente non ha cambiato idea. L'ultima volta che sono stato a L'Avana ho parlato a lungo con Mariela, la nipote di Castro, che si è spesa per far cessare le leggi omofobe. E sì, tutti i miei amici europei mi dicono «Tu a Cuba saresti in galera». Però vorrei ricordar loro che nel 59, quando Castro prese il potere, lasciò ampia libertà ai capi locali. E furono questi, omofobi come forse anche Castro, a volere la repressione, perché omofoba era la società tutta. Le cose peggiorarono ancora all'arrivo dei sovietici. I gay furono attaccati anche come presunte spie e vissero due stagioni molto dure. Ricordo che il mio amico Reinaldo Arenas, scrittore incarcerato perché gay, divenne un simbolo. Ma ricordo anche che esistevano molti gay filocastristi, i quali mi dissero che l'incarcerazione di Arenas era dovuta non alla sua omosessualità, ma a certi suoi adescamenti di minori. Ovviamente non potei mai verificarlo. Lo rammento per dire che esistevano anche dei gay pro Castro. Ma come? E le persecuzioni, le uccisioni, le inutili e, per la verità, sporadiche mobilitazioni in Occidente? Voglio solo dire che anche a Cuba la realtà è stata più complessa e ha visto diverse fasi, spiega il filosofo eurodeputato. Mi raccontano che oggi a Cuba gli omosessuali fanno tutti i comodi loro, anzi, sorride ironico. Quasi quasi mi spiace non esserci andato di recente. L'ultima volta, nel 2006, Castro mi faceva girare con una vistosa Mercedes nera che rendeva un po' difficili i contatti. Certo, i tempi erano mutati da un po', anche prima delle chiacchiere su Raul o della battaglia anti-omofobia di sua figlia Mariela. Mario Vargas Llosa narrò di quando Carlos Franchi, direttore del quotidiano Revolución, assisteva ai consigli dei ministri a Cuba nei primi anni 60. Fidel e i suoi luogotenenti domandavano ai paesi fratelli che politica consigliassero per porre un freno al problema omosessuale. La risposta della Cina popolare di Mao, annotò Vargas Llosa, fu netta. Non abbiamo questo problema. Li fucilliamo tutti. Tutto un mondo era omofobo e Castro seguiva. Rossana Rossanda, una delle testimoni di quelle stagioni, già sul Manifesto scrisse della sua disillusione sul castrismo. Nel 67 la colpì tra l'altro che durante un pranzo con Castro e K.S. Carroll il leader massimo si fosse dichiarato all'oscuro delle purghe a Mosca negli anni 30. Poi Carroll scrisse «La guerriglia al potere» e per i cubani divenne un servo della CIA. «Non vado più a Cuba da allora», ricorda adesso la Rossanda, «e non posso sapere molto di ciò che motiva l'uscita di oggi. Certo, mi fa piacere che Castro si apra ai diritti civili. Quello che posso raccontare è che allora l'omofobia in tutto il continente americano, non solo al sud, era diffusa nella società e in modi del tutto trasversali, non solo nei partiti comunisti. Quella di Castro poi non era solo omofobia, era sessuofobia tout court. Era terrorizzato anche dai rapporti tra uomini e donne, normali in Europa in quella stagione. Ricordo che una volta, a L'Avana, io non avrei avuto nessun problema a dormire nella grande tenda dove c'erano anche soldati. Fu lui a dirmi «Signora, la prego, sa, da noi queste cose non si usano». Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Jacopo Iacoboni «Il mea culpa di Fidel, chiedo scusa ai gay, li ho perseguitati», dalla Stampa del 2 settembre. Gli amici veri valgono più di una Ferrari e quelli grassi rendono più felici di quelli magri. sono solo alcuni dei dati che emergono da uno studio realizzato dal Financial Times, che rivela i 7 segreti per conquistare la felicità. Cercare e trovare la felicità utilizzando criteri razionali, statistiche e calcolo delle probabilità deve essere davvero possibile se il più autorevole quotidiano economico-finanziario inglese dedica alla ricetta un'ampia inchiesta, cominciando a sfatare i principali luoghi comuni. Non solo il denaro non rende felici, cosa che in molti già sospettavano, ma anche eventi drammatici, come il divorzio, possono diventare un ingrediente cruciale per migliorare la propria vita. Tra i 7 segreti per essere felici, rivelati da Nick Poutavi, insieme al giornalista Carl Wilkinson, alcuni sono sorprendenti. Si comincia dal denaro, che può comprare soltanto piccole felicità. Si prosegue con gli amici e la vita di relazione, che valgono più di una Ferrari scaglietti. Poi comincia a prendere a picconate i luoghi comuni. La vincita alla lotteria, ad esempio, non rende felici, o quantomeno non lo fa subito. Ci vogliono almeno 2 anni per godersela, mentre un aumento di stipendio entra subito nel circolo del buon umore. Perdere il lavoro non è un gran problema se il tasso di disoccupazione del proprio paese è alto e se raggiunge il 20% smette del tutto di esserlo, quantomeno in termini di autostima. E ancora, meglio avere amici grassi, che ci faranno sentire meno disgraziati se anche noi aumentiamo di peso, meglio divorziare che vivere con chi ci affligge, e meglio ancora se siamo noi a chiedere e a condurre la separazione. Infine, il mistero del contagio. Persone felici che vivono nell'appartamento accanto al nostro, nel raggio di pochi chilometri, possono contribuire a fare di noi persone più felici in futuro. Senza troppa intimità, però, perché se vivono nella stessa casa o nello stesso ufficio, le probabilità di contagio si abbassano rapidamente. L'inchiesta del Financial Times è accompagnata da testimonianze dirette di uomini e donne che raccontano il proprio concetto di felicità. Il matematico che riesce a risolvere un problema, la ristoratrice che trova il tempo di cucinare per gli amici, il milionario diventato filantropo. E da un'abbondanza di ricerche comparate, da quelle di David Gilbert ad Harvard fino agli studi di Andrew Oswald, che già nel 1990 aveva lanciato il primo tariffario esistenziale. Una buona salute può valere oltre 1 milione di sterline. 200.000 equivalgono a un buon matrimonio, mentre la morte di un amico equivale a perderne 8.000 e quella di un figlio 126.000. E in Italia? Lo studio comparativo più approfondito, trascurato dal quotidiano inglese che ha preferito giocare sul prezzo dei principali eventi esistenziali, resta quello condotto ad Harvard dall'italo-inglese Roberto Foà, con altri 3 economisti. La quota di chi si definisce molto felice è passata nel nostro paese dal 10% del 1981 al 18% del 1990, per ricadere al 16% nel 2007. L'Italia si piazza così al 17° posto in Europa, dietro l'Ungheria e la Moldavia. Spiegazioni? Secondo Foà, la felicità è aumentata molto in Europa negli ultimi 25 anni, soprattutto in relazione ai maggiori livelli di libertà personale e collettiva raggiunti in molti paesi, non invece in relazione alla crescita economica. Controprova? Gli uomini sono più felici delle donne che pure, in relazione al punto di partenza, hanno guadagnato nell'ultimo quarto di secolo più spazi economici e sociali. A fare danni al tono dell'umore femminile è qualcosa di molto simile al teorema degli amici grassi lanciato dagli inglesi. Il paragone tra le proprie difficoltà e quelle dei maschi, perché, come dice Marta Dassù, studiosa di politica internazionale, in Italia l'impegno con cui molte donne affrontano la vita professionale non corrispondono risultati analoghi a quelli di molti uomini e si rischia di fare molta fatica con scarso costrutto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Vera Schiavazzi, Felicità. È contagiosa, i vicini la trasmettono. Ecco i 7 segreti per conquistarla, da Repubblica del 30 agosto.